Sono Alessandro Bianchi, ministro dei trasporti. Moltissimi incidenti dipendono dalla distrazione e dall'uso del telefonino alla guida. E tu ora stai usando l'auricolare in auto? Rispetta le regole per rispettare te stesso. Campagna a cura del governo. Ministero dei trasporti.